realtà. Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Che cos'è il genio? Fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Io ho atteso, come un atto dovuto, la smentita di una ministra che, parlando della Costituzione, avrebbe posto quella parte della sinistra orientata a votare no sullo stesso piano di Casa Pound e noi, virgolette, con Casa Pound non votiamo. Più volte io ho sentito equiparare chi vota sì alle riforme costituzionali a Verdini, dicendo che chi vota sì vota insieme a Verdini. E in un incontro pubblico mi sono limitata a dire che chi vota no come Casa Pound. Ho semplicemente fatto una constatazione. Da qui al 2018 ci sarà una direzione, una, in cui la nostra minoranza interna non attaccherà questa segreteria e questa dirigenza del partito. Una! Per gli archeologi travestiti da costituzionalisti, io ho grandissima stima per chi fa l'archeologo, ma che mi venga a dare lezioni di diritto costituzionale dicendo che io non posso cambiare la Costituzione perché non sono eletto direttamente, quando la Costituzione non parla di questo, non stai difendendo, forse stai difendendo il codice di Hammurabi, non la Costituzione, forse stai difendendo un qualcosa che hai trovato in uno scavo. La nostra Costituzione non è trovata in uno scavo, evidente. E vai Indiana Jones, Renzi, e vai Indiana. Oh, questa storia del Casa Pound, niente, il ministro Boschi non vuole capire che è in corsa in una... ma non in una gaffe, ha fatto una constatazione. Chi vota no è con Casa Pound. Capito, ma è una constatazione. Se ho capito che è una constatazione, anche tutti i tedeschi parlano la stessa lingua di Hitler. È una constatazione, no? Anche Renzi è toscano come il Pacciani. È una constatazione. Non è che adesso Peter mi guarda come dire, hai detto. No, ho detto una constatazione. Renzi è toscano come il Pacciani. Cioè, anche, non so, in America gli arbitri vestono la maglia bianconera, ma non è che per questo vuol dire che... Beh, in quel caso... No, no, nel senso, è una constatazione. Però, via via, andiamo avanti di constatazione in constatazione. Possiamo fare mille di constatazioni, no? E che c'entra, insomma? Niente, chi vota no. Che peraltro la Boschi, nel dire questa cosa, perché insomma, hanno detto che chi vota sì sta con Verdini, e allora io piccata, cioè quindi si vergogna di stare con Verdini, insomma. Allora piccata dice, ah sì, mi dici che sto con Verdini e tu stai con Casa Pound. Che mettendola giù così non è che dimostra di essere molto orgogliosa di andare con Verdini, no? Quindi si sente un po' piccata quando le dicono stai, voti con Verdini e allora tu voti con Casa Pound. Peraltro Casa Pound a Bolzano ha trionfato, cioè, ci sono state le elezioni a Bolzano, a furia di parlare di Casa Pound ha preso il 6%, il 7%, ha fatto un exploit elettorale mica male. Milan è un idiota, è una constatazione, ci scrive un ascoltatore, per esempio, potrebbe essere anche questa una cosa. Diteci la vostra constatazione del giorno, cari ascoltatori. Forza al 349-238-6666, servono constatazioni, compriamo constatazioni. Eh. Eccoci qua. Allora, anche il Milan è una squadra di calcio. Anzi, ma anche il Milan è una squadra di che? È una constatazione, effettivamente. Mi chiede Lorenzo se passo da Montevecchia, ridente località straordinaria in Brianza, qua in Lombardia, per un caffè. Così adesso prendo e vado a Montevecchia. Avrei una trasmissione da portare avanti, caro Lorenzo, ti ringrazio comunque. Sono le 6:34 minuti e voglio subito salutare un uomo, una constatazione da Napoli, un mito, una leggenda che ho avuto anche il piacere di incontrare, perché sono stato a Napoli in giornata settimana scorsa. E lui, Gianni Simioli, il conduttore della Radiazza, eccolo lì. Buongiorno amici constatatori. Constatatori. Tutti voi. Buongiorno. Voglio ricordare da Radio Marte alle 9:30. Tra tre ore esatte, per cui facciamo presto. Tra tre ore, sì, cioè devi preparare una scaletta un po'. Tra tre ore. Tra l'altro, tra poco ti faccio ascoltare un De Magistris, mamma mia, un gigino da combattimento. Te la devi fare nei pantaloni, quella? più o meno, sì. Un gigino da combattimento. Insieme a Gianni Simioli, voglio salutare il nostro super mega dir, il direttore di oggi, Umberto Brindani. Buongiorno direttore. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Come va? Vuoi fare constatazione? Vuoi constatare? A Milano piove. Voglio constatare che mi sono alzato presto stamattina. Dovete scontare, devo sempre scontare questa cosa, cari ascoltatori. Non solo ho la sveglia alle 5, ma mi devo sentire in colpa perché i miei ospiti sempre come prima cosa mi fanno notare che sono stati sbrandati alle 6:30. Bravo. E va bene, capito caro direttore. Qua la Boschi dice: ho constatato solo questa cosa, cioè niente di più, niente di meno. Sì, però... poi ha aggiunto anche: caro Gianni, sinceramente potevi farmi una telefonata. Sì. Trovo anche questa meravigliosa. Sì, non è male, potevi farmi una telefonata. Cioè. Invece di fare casino qua alla direzione del PD, esatto. Di rompere le scatole, la minoranza che continua a criticare, come se la minoranza Sì, c'è da dire che effettivamente queste direzioni del PD non spostano molto nella quotidianità delle persone, non su questi dibattiti. Però effettivamente, insomma, questa del referendum, insomma, è stata un'uscita un po', non so, io ho detto non buona la prima del ministro Boschi, magari migliorerà. Comunque dobbiamo aprire il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Va bene, ci scrivono anche Veronica Gentili, è buona, è una constatazione. E vabbè, d'altronde si sa, ma c'era ieri la nostra Veronica. Allora Gianni, si parla di referendum da quelle parti a Napoli, ma no, voi state combattendo con... Noi stiamo combattendo la battaglia e voglio dire, poi il PD sta facendo veramente di tutto, vedi l'ultima anche perché Gigino incazzi sempre di più e che come si... il suo popolo che l'altra sera insomma l'ha raggiunto a Palapartenope, dove insomma a un certo punto poi ha lanciato questo avvertimento, un po' Guttalax, un po' Bifidus, no, della Marcuzzi. Come posso dirlo a quest'ora? Adesso lo facciamo sentire. Lo facciamo sentire. De Magistris, giusto perché il tono è pacato, no? In campagna elettorale. De Magistris a Renzi, sentite qua, comizio. Non ne avete mai, il più confuso dovete usare, e non siete un cazzo perché ci sarete voi, se vi fanno fuori ci sarete voi, non sono in vendita, andate a casa, Renzi vai a casa. Non si è capito bene, ma ti devi cagare sotto! Cagati sotto, Renzi! C'è questo gigino da combattimento, no? Ma che succede a Napoli, Gianni? Che succede? Avete perso lo scudetto, state impazziando! Ma guarda, allora, innanzitutto succede tutto questo anche grazie a quello che dice la Bosca, a quello che fa il PD, e ci troviamo nella situazione di 5 anni fa, in realtà. Adesso non ti dirò mai per chi voto, perché sai, no, che c'è le De Magistris, la par condicio, e quant'altro. Ti fanno la pelle a Napoli se dici per chi voti, eh? Ma veramente non lo so se mi fanno la pelle, tanto prima o poi lo dirò. Io ho un rapporto con chi mi segue abbastanza chiaro. Prima o poi lo dirò, sto decidendo però, perché non credere che sia facile questo momento a Napoli decidere per chi votare. Che sta succedendo? Che De Magistris approfitta anche, devo dire, abilmente di tutto quello che il PD sta producendo in queste ore, che sono le dichiarazioni della Boschi, che sono quello che è successo alle primarie, e poi soprattutto per colpa di certe constatazioni, no? Perché Renzi dice ai napoletani che non vogliono seguire quello che pensa lui, centri sociali. Su questa cosa del non votare è molto interessante, perché io non so, Brindali, tu che sempre hai un osservatorio, secondo te gli italiani sanno più per chi votare come prima? Cioè hanno queste certezze, oppure decidono di volta in volta, decidono? Che dici? Mi sembra evidente che siamo in una situazione in cui totalmente deideologizzati, per cui non ci sono più le appartenenze, salvo diciamo rarissimi casi, per cui si valuta volta per volta. Prima citavi il risultato di Bolzano, no? Con Casa Pound quasi al 7%. Manca a farla apposta. La sinistra è completamente fatta fuori, c'è una soglia di sbarramento, no? Per cui ogni volta non si capisce nulla. Devo aggiungere che siamo in campagna elettorale ormai da settimane o da mesi, e sono abbastanza terrorizzato dal fatto che passeremo tutta l'estate in campagna elettorale. Mamma mia. Vi inseguiranno nelle spiagge, troverete le persone col kit, io l'ho già detto, non mi devono citofonare alla porta quelli del kit del comitato per il sì, perché altro che testimoni di Geova, divento una belva se mi suonano il sabato mattina. Senta, sono del comitato per il sì al referendum, col kit, no? venga in casa, venga che le dico due cose, no, non lo so, sarà una campagna elettorale, sì, Brindani, disastrosa. No, anche perché sembrava che Renzi dovesse vincere in carrozza il referendum costituzionale, mentre invece gli ultimi sondaggi o parasondaggi danno una sostanziale parità, e soprattutto, come dicevi tu, con la maggioranza degli italiani che non ha assolutamente idea di cosa votare nel merito. Ma tranquilli, sarà il solito plebiscito, allora tanto varrebbe andare alle elezioni e dire: volete ancora Renzi o non volete Renzi? A nuove elezioni, capito Gianni? Non abbiamo ancora fatto queste dei comuni, non abbiamo fatto quelle del referendum, e ce ne sono già in coda. Ma infatti stavo pensando che estate di merda, una volta avevamo i tormentoni, direttore della Bertè, ve li ricordate, no? Le canzoni, quest'anno sì, sarà sì. Vamos a votare, canzoni sul referendum, esatto. Mamma Don Carmine, come diciamo noi da queste parti qui a Parigi. Esatto, a proposito di Parigi, ma l'avete smaltita questa delusione per lo scudetto? Ma ci avete veramente creduto, Gianni? Ma ci avete veramente creduto? Ti dirò di più che io, insieme a Gino Di Mare, che è il fratello di Franco Di Mare, giornalista di Tucolo, non solo ci abbiamo creduto, ma noi festeggeremo il secondo posto, faremo una grande notte, sappiamo dove, se in piazza Plebiscito, se in una grande piazza. Ci abbiamo deciso, adesso vedrai quanti tweet, quanti messaggi ti arrivano, di chiamare la vittoria il campionato dell'onestà, Alessandro. Pensa, noi napoletani, quante ce ne mettiamo. Ma questa non, però ridiciamolo subito, a Napoli festeggeranno il secondo posto come il campionato dell'onestà. Amici juventini, scriveteci, ma perché? Siamo il popolo che si inventa, che si arrangia, che supera le giornate. Ho capito, ma te lo dico io da milanista, anche critico, te lo dice Brindani da interista, se non ricordo male. Insomma, ha vinto tranquillamente la Juve quest'anno. Poi a chi diamo fastidio se facciamo questa vittoria del campionato dell'onestà? Voglio capire, ti infastidisce? No. No, beh, insomma, io se fossi uno juventino mi infastidirei, perché non hanno rubato poi, nulla, e quindi... Ma mica abbiamo fatto allusioni, mica abbiamo nominato la Juve, senza allusioni. Andate a sentire la telefonata mia, no, con Tosella, a te sarà sfuggita, credo, sì, qualche il mese scorso, bah. Insomma. Come, vabbè, ti invito, Alessà, sarai invitato, eh. Va bene, io se posso vengo molto volentieri. Però io vorrei capire, a Foggia, Brindani, hai visto che li hanno ribeccati ancora, sì, i furbetti, sì, del cartellino, ma il migliore è quello di Foggia. Guardate che questa dichiarazione, questo beccato a Foggia nasconde anche un dramma, perché questo, uno di quelli beccati che timbravano per altri a Foggia, ha detto così: certo che sono pentito, ho fatto i miei errori, ora li voglio pagare, ma noi siamo vittime di una consuetudine negli uffici pubblici: se ti tiri fuori, cioè se non timbri per l'altro quando succede, poi vieni visto male, il giorno dopo ti fanno il dispettuccio, poi ti tolgono il saluto e allora lo fai per il quieto vivere. Guarda che io non riesco a dargli tutti i torti a una persona così, eh. Cioè, poveretto. Lui ha anche detto una cosa, sai, era una questione di 15 minuti, mezz'ora, andare a prendere il caffè. Poi alle 9 aprivamo gli sportelli ed eravamo tutti gli sportelli. Io sono abbastanza a disagio su questa cosa, perché mi sembra che sulla questione dei furbetti del cartellino si stia montando una demagogia veramente esagerata. Adesso è molto impopolare provare a difendere questi personaggi, però è anche vero che stiamo parlando veramente di minuzie, capito? Sì. Mi verrebbe anche a me un po' da difenderli, ma sai quanti anche qui, ma io per primo vado a bere un caffè, poi passa un amico, dice, passa Mauro Meazza, mi dice traffico, e dice andiamo a bere un caffè, andiamo a bere un altro caffè, passa Simioli, sono venuto da Napoli a Milano, che faccio, non vado a bere un altro caffè? Succede, cioè, nel senso, però capisco che lì, se uno deve tenere aperto un ufficio, uno sportello, non è che può sicuramente assentarsi. Ci sono poi i furbetti veri, però tra i furbetti veri poi vanno a finire anche persone, probabilmente come questo signore che citavi tu, che semplicemente, come dice lui, per quieto vivere si è adattato a un sistema che non era perfettamente legale, però tutto sotto la sorveglianza di telecamere nascoste, manco stessero rapinando una banca, insomma effettivamente un po' di disagio io personalmente lo provo. Bravo, mi piace questa difesa anch'io, voglio difendere adesso dopo il traffico, anche faccio difendere a Gianni Simioli i quelli che non lavorano a Napoli, che non voglio fare il campionato dell'onestà senza allusioni, quelli che non lavorano a Napoli senza allusioni, tra poco dopo il traffico. Brum brum brum, c'è il traffico Milan. Ehi, mamma, avete scassato un cazzo con questa notizia, o sindaco musulmano a Londra. Voi preparatevi, signore e signori, perché mo che mora la regina Elisabetta, faremo una nuova regina musulmana. E così abbiamo finito con tutta sta cacciare, sta carovana. Ho fatto anch'io la prova costume, mi entrano solo le ciabatte. Milan, ma... il capretto sgozzato in strada da questi musulmani, ma prova tu ad andare a Riyadh e metterti in strada a vendere bracciole e salsicce di maiale e vediamo cosa succede e se poi ti assolvono. Ma Renzi non era quello che diceva che la politica si fa in Parlamento e non nei talk show? Oh Milan, ma mai è possibile che sei così retrogrado? Perché ti stupisci per i matrimoni multipli? In America esistono già da 20-30 anni, si chiamano poliamore. Non c'è niente di strano, Anghenin d'affer. Te troppo renziano, te. Va bene, viva i matrimoni, i poliamori. Allora, caro Gianni Simioli, ora te la sei proprio tirata. I napoletani sono per l'onestà, è un ossimoro, vero? Questo siamo, andiamo al razzismo diretto. I napoletani non sanno perdere, parola di Maddalonese. Un ascoltatore. Da Senese dico, siete dei bischeri napoletani, sono dei poveracci, non sapete proprio perdere. Poi c'è questo, guarda, via WhatsApp, il simbolo è uno scudetto con scritto 34, quindi ti fa capire un po' chi ti farà. Sì, come Cicciolina festeggia la verginità. Voi festeggiate l'onestà. Ci state superando, sì, sì. Questo Cicciolina è buono. Che volevi sapere se siamo onesti? No, dico appunto, ah. Tu difendi un po'. Secondo me, ha ragione Brindani, c'è un po' di accanimento. Adesso si mettono, non stiamo difendendo chi non fa il proprio lavoro. Però insomma, questi arrivano 5 minuti in ritardo. Ma diciamo che letta così dal punto di vista estetica la notizia dei furbetti ti fa pensare che in Italia c'è sempre qualcuno che abbia più voglia di lavorare di te, per cui timbra al posto tuo. È un po' come in classe quando il primo della classe, no, ti fa il compito, ti passa le risposte, e diciamo che siamo un po' abituati, credo, volendo. Comincia tutta a scuola, ma credo che non sia Napoli, la Sicilia, ma credo la Lombardia, il Veneto. Insomma, però la domanda mi interessava, voi sapete se noi siamo onesti? No, tu fai la festa dell'onestà, sarete onesti per forza, no? Sì. Assolutamente sì, siamo onestissimi, tant'è che di furbetti, voglio dire, ne abbiamo anche noi, ma pochissimi rispetto a quello che in Italia si dice dei napoletani, no? Dovremmo essere un popolo di furbetti qua da queste parti, sì. E invece, guarda, verifica nelle notizie. Forse nel corso dell'ultimo anno due volte saranno arrivati da Napoli, sì. i furbetti del cartellino, vedi, il calcio c'entra sempre. Il calcio c'entra sempre. Mi chiede invece un ascoltatore, sempre un'ascoltatrice, un ascoltatore, questa cosa è una cosa che mi ferisce ancora, perché io ero giovane lì, l'ho sofferto quel campionato, ma anche ai tempi di Alemão eravate onesti, ecco, bravo, avete fatto la festa dell'onestà, la monetina di Alemão, ancora ce l'ho qua nel groppone, la monetina di con massaggiatore Carmando, buttata a terra. Mannaggia, ragazzi. Alemão non è nata a Napoli, però brasiliano, che c'entra, ma giocava, ma non è nato, Carmando sì. Ma vabbè, insomma, vi impressiona sta cosa dell'onestà? No, ma la festa dell'onestà, perché è stato un campionato regolarissimo, non capisco. Ma lo sanno tutti che in Italia si fanno due campionati, Milan, dai, forza. Allora noi facciamo il nostro e crediamo di rappresentare anche un sacco di altre squadre. Uno con la Juve, uno alla Juve e l'altro agli altri, insomma. Ma non ho parlato di Juve, siete voi. È una constatazione, sono primi. Ma primi, il campionato dell'onestà. E quindi è una constatazione, va bene. Vi faccio sentire Beppe Grillo, giusto perché il clima è sempre stemperato. Brindani, senti qui anche Beppe Grillo, ci mette del suo, a Renzi. Abbiamo oggi al governo un minorato morale. Un minorato morale non è male. Però Renzi che dice c'è una questione morale nel PD. Brindani depotenzia un po' le critiche, cioè è stata una mossa abile, perché dice ve lo dico io per primo che c'è una questione morale. Beh, quindi... è una constatazione. Anche questa. D'altra parte, con tutti questi sindaci del PD che sono messi sotto scacco, d'altra parte poi Grillo si dovrebbe ricordare di Nogarin a Livorno, no? Sì, insomma, come si dice, chi ha il più pulito alla rogna, posso usare questa espressione? Sì, si può usare quello che vuole. E quindi, insomma, lui deve ammettere che c'è una questione morale nel PD, perché semplicemente c'è un attacco. Lui sostiene che ci sia un attacco della magistratura alla forza di governo, e quindi ha deciso di abbassare i toni, perché altrimenti finisce male, insomma. Sì. No, effettivamente sì, i toni sono questi. D'altronde si capisce, da Napoli. Ma dov'era De Magistris? Se gli è partita la brocca in questo comizio, Simioli? Che... No. O è normale? È normale. Ma non siamo affatto sorpresi, come lo chiami tu, come lo chiamiamo noi affettuosamente, qualcuno anche no, Gigino. È questo, insomma, il tono della sua campagna elettorale. Farci sentire una fetta enorme di napoletani, quelli della rivoluzione... quelli che non ci stanno alle regole, in qualche maniera, Alessandro, insomma, è da sempre che la rivoluzione che è arancione, che è la rivoluzione arancione, la rivoluzione dobbiamo essere indipendenti. Ma mi sembra un po' finita questa cosa, non so, Brindani, c'è ancora questa cosa, la rivoluzione arancione? No, guarda, non so chi è che ha detto, mi sembra il candidato del centrodestra che bisognerebbe fargli l'antidoping. giusto sempre per stemperare. Brindani, domani su che apri? Si può dire o no? Si può svelare? No. Ma domani noi abbiamo una bellissima copertina su Gianni Morandi, il nazional popolare che c'è, che fa una bellissima confessione. Dice, sono un uomo felice, un ragazzo felice, un po' me ne vergogno perché ho avuto troppo dalla vita. Ragazzo. Va bene, intanto vi ricordo alle 9:30 Gianni Simioli, La Ragazza, non so di che parlerà, forse annuncerà dove farà la festa del campionato dell'onestà, non lo so. Scherzo, dai, un abbraccio a tutti voi e ci sentiamo alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti e ci siamo, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali, a stare con voi. Forza, forza, forza, buttiamoci. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È martedì 10 maggio. I titoli di apertura: Il Sole 24 Ore, come altri quotidiani, apre sulla relazione del presidente della Consab, l'incontro annuale con il mercato. Vegas, più tutele ai risparmiatori, in arrivo prospetti semplificati. Questo è il titolo, e poi il Manifesto del Sole è tra gli ispiratori delle nuove schede prodotto. Per il Messaggero, banche, i rischi erano chiari. Vegas, questa la frase del presidente Consob. A proposito di banche, però, l'inchiesta su Banca Etruria, l'apertura del Corriere della Sera: così Etruria truffò i clienti, IPM l'ordine di dare bond a rischio anche ai piccoli. Il Giornale: in banca un ufficio per truffare i clienti, anche il Giorno apre su questo, Etruria i cervelli della truffa. Per Repubblica invece la disfida nel PD sul referendum, caos PD, Boschi, chi vota no fa come Casa Pound, il titolo che già da ieri, per la verità, girava. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre per Libero, Jobs Act, 100.000 posti falsi, denuncia dell'INPS, 60.000 aziende hanno dichiarato assunzioni fasulle per godere degli sgravi previsti dal governo. Questo è il titolo di prima pagina. Voglio partire dalla classica notizia di cronaca che di tanto in tanto fa capolino sui giornali, cioè i furbetti del badge, i furbetti del cartellino. L'arresto di impiegati comunali a Foggia. Ora ci chiamano furbetti, ma negli uffici pubblici va così. Mi ha colpito di questa vicenda, che potete immaginare è fatta in fotocopia, cioè queste immagini delle polizie, queste telecamere che riprendono quelli che fanno la timbratura, l'oblitteratura per 10-15 persone. Però mi ha colpito che cosa di queste storie un po' in fotocopia ovunque. Due dichiarazioni, o meglio due articoli, Fabrizio Caccia che riporta la dichiarazione di una di queste persone arrestate. Li chiamano già i furbetti del cartellino, ennesima storia. Giovanni Signoriello, uno dei 13 impiegati finiti ieri negli arresti domiciliari, si sfoga però con le persone più vicine e si sfoga così: certo che sono pentito, ho fatto i miei errori, ora li voglio pagare, ma noi impiegati siamo vittime di un sistema, di una consuetudine. Negli uffici pubblici funziona così: se ti tiri fuori, poi vieni visto male, il giorno dopo ti fanno il dispettuccio, ti tolgono il saluto. Allora lo fai per il quieto vivere. Tu alle 8 timbri il cartellino anche per i tuoi colleghi, è vero, gli altri a rotazione lo fanno per te, ma stiamo parlando di 15-30 minuti di ritardo al massimo. Non è assenteismo vero, perché poi alle 9, quando si aprivano gli sportelli al pubblico, eravamo tutti regolarmente ai nostri posti. E poi dice: mica timbravamo e andavamo a giocare a tennis, certo qualcuno faceva la spesa, è vero, ma solo perché il mercato si trova qui a due passi. Io timbravo per altri due che mi chiedevano il favore abitando distanti, ma poi comunque arrivavano anche loro. Oh, per carità, lo so, è impopolare, si è già detto anche prima alle 6.30, non li voglio difendere, queste dichiarazioni non sono da difendere. Però quante persone anche nelle aziende private vanno a bere il caffè ogni 10 minuti? Vogliamo parlare anche che magari non timbrano il cartellino, non hanno, oppure timbrano il cartellino e poi ogni 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti vanno una volta, due volte, tre volte, quattro volte a bere il caffè. Insomma, i moralismi tanto al chilo, buttando addosso sempre, adesso perché ci sono le immagini, la colpa a questi qui, io non me la sento. Ma mi ha colpito di questa vicenda anche la secondo articolo della Stampa, tutti i giornali raccontano di questa storia di Foggia. Ed è questa, ho pensato, verranno licenziati in tronco. D'altronde Renzi ha fatto un decreto, ve lo ricordate, è andato in TV, ha detto ora basta, vieni beccato, via, fuori, licenziato, a casa. Difficile licenziarli, il decreto Renzi è bloccato. Pagina 17 della Stampa, Giuseppe Salvaggiulo annunciato in pompa magna dal premier Renzi dopo lo scandalo del comune di Sanremo, a 4 mesi di distanza il decreto ammazza furbetti del cartellino deve ancora entrare in vigore. Dopo i pesanti rilievi del Consiglio di Stato, oggi la Commissione Lavoro del Senato discuterà la relazione del relatore Pietro Ichino, poi il testo tornerà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Insomma, è tutto ancora in alto mare, ci vogliono i tempi tecnici. Vabbè, abbandoniamo l'Italia, ora vi voglio far fare un tuffo all'estero, perché ci sono tanti bei reportage oggi dai giornali, spesso non accade, e invece ci sono pagine da segnalare. La prima è del Corriere della Sera, dove da giorni Guido Santevecchi, in uno straordinario viaggio nella blindata Corea del Nord, ha avuto il privilegio, la fortuna, la bravura di riuscire a entrare in Corea del Nord, invitato come Corriere della Sera insieme ad altri giornalisti per seguire il congresso del leader Kim Jong-un, del partito del leader nordcoreano. Oggi racconta Io e il dittatore, una surreale giornata con una banale richiesta: possiamo incontrare Kim Jong-un? Lui insieme ad altri giornalisti della CNN, e racconta di ore e ore di attesa, perquisizioni ripetute, asfissianti. A un certo punto colui, come in un film 007, colui che c'è tra me e forse Kim Jong-un, una guardia impugna un rilevatore di oggetti e sostanze sospette, inizia a guardare il taccuino dei miei appunti, lo gira, lo rigira, lo scuote, lo fa cadere, poi la penna, poi gli occhiali da vista che quasi stritola, i biglietti da visita scovati con sconcerto nella tasca della giacca, me li spiegazza tutti con cura per assicurarsi che non siano lame assassine. Non contento, passa una a una le mie carte di credito con il rilevatore, sono sicuro che le ha smagnetizzate tutte, e poi mi ha chiesto cosa fossero, e io: money, good capitalism, gli ho spiegato. Finita questa procedura, ci mettono in un van, ci portano da un'altra parte, ore e ore d'attesa. Insomma, alla fine riesce a entrare nella sala dove c'è riunito tutto il partito. Il congresso, il settimo della storia, il primo da 36 anni. A un certo punto entra Kim Jong-un, tutti scattano in piedi, applaudono freneticamente, cominciano a scandire Mansae, cioè lunga vita, ovazione che dura minuti, fino a quando Kim si siede e comincia a segnalare che poteva bastare. Ma ancora ovazioni. Allora Kim fa segno a quelli che gli stanno a fianco, gli eletti del Politburo, muovendo le mani con una certa impazienza. Alla sua sinistra un generale comincia a scrutare gli altri e i 16 del Politburo si scrutano e prendono tempo. Alla fine si muovono tutti insieme. Kim Jong-nam, capo dello Stato, annuncia il risultato. Kim Jong-un è promosso presidente del Partito dei Lavoratori. Ecco, l'incontro ravvicinato con Kim finisce qui. È il massimo di accesso al leader concesso dal protocollo nordcoreano. Insomma, Guido Santevecchi lo racconta sul Corriere della Sera in prima pagina, mentre vi segnalo uno straordinario reportage del mio giornalista inviato preferito, Domenico Quirico, è in Africa, in Chad, a raccontare per la Stampa l'ultima roccaforte dei talebani. Inviato a Kaya in Chad, Domenico Quirico in Prima della Stampa racconta: mezzogiorno, luce, luce così intensa da rimanere ammirati, stupefatti, come se uscendo da una sorta di semioscurità gli occhi si spalancassero, vedessero più chiaro, sempre più chiaro, sulle acque del lago Chad, che chiamiamo lago ma che è un mare, un errore della natura che ha colmato di acqua dolce questa enorme voragine nel cuore dell'Africa e l'ha imprigionata tra pareti di deserti incombenti come un lento destino e di fertili savane dai contorni azzurrognoli. Qui, racconta Domenico Quirico, in Chad, sul lago che non esiste più, c'è la trincea dei talebani d'Africa, cioè Boko Haram. E allora continua Quirico, sempre più luce. Da quali tenebre siamo dunque usciti? Eppure questa è una parte del mondo messa a soqquadro dalla rabbia dei Boko Haram, i talebani d'Africa. Di che natura è questa festa di chiarori bianchi che sembra in ogni luogo avere inizio? E invece queste ombre fatte di massacri, kamikaze bambine, travestiti da donne, pulizie totalitarie fitte di stupri, sgozzamenti. Il lago Chad è chiuso, vietato, ai battelli, alle piroghe, impossibile attraversarlo, bisogna penosamente aggirarlo in questo paese senza strade, con lunghi percorsi di sabbia. E poi continua, sono due pagine, pagina 4 e 5 della Stampa, il racconto appunto di come Boko Haram abbia conquistato questa zona dell'Africa inaccessibile alla popolazione locale e da qui ovviamente si organizza un nuovo fondamentalismo nel cuore dell'Africa, in Chad, al confine del Camerun. Per concludere la pagina estera bisognerebbe raccontare delle elezioni nelle Filippine, ci sono moltissimi filippini anche in Italia, hanno un nuovo presidente, già sindaco di Davao, già magistrato, Digong Duterte, conosciuto come il giustiziere, colui che ha fatto tutta la campagna elettorale, come racconta Emanuele Giordana sul Manifesto a pagina 6, contro i criminali, al grido di macelliamo i criminali. Quando sarò eletto presidente ci vorranno obitori e non prigioni per affrontare il problema degli spacciatori. Ma è uno che parla abbastanza chiaro, insomma, è uno che parla alla pancia del paese, già ribattezzato il Trump delle Filippine, colui che ha dato del figlio di letterale al Papa, perché quando è arrivato ha creato un po' di problemi al traffico nelle Filippine, quindi lui ha detto il Papa è un figlio di beep. E colui, racconta il Manifesto, che in passato avrebbe detto questo, per la verità poi ha smentito questa dichiarazione, ma il suo commento a caldo dopo lo stupro di una missionaria australiana, tanto bella che valeva la pena essere il primo. Così avrebbe detto, in realtà poi lui ha smentito questa dichiarazione. Eccolo qua, Digong Duterte, nuovo presidente delle Filippine. Ha detto: e se il Parlamento mi impedisce di macellare i criminali, lo chiudo. Vabbè, in bocca al lupo, ovviamente, alle Filippine. Intanto, eccoci qua, torniamo in Italia per l'articolo che mi fa pensare della giornata. Non ci volevo credere. E lo so, non è che bisogna difendere una signora che per sua stessa ammissione ha spacciato per mantenere 8 figli tutta la vita, ma mi ha colpito, se non mi ha fatto molto arrabbiare, la storia che Nicola Pinna racconta a pagina 16, la storia di Stefanina Malu, 83 anni, ancora in carcere, la detenuta più vecchia d'Italia. Dice: la prima volta che mi hanno arrestato, giuro non me lo ricordo più. Glielo ricordiamo noi, era il 62. Da allora Stefanina Malu è entrata e uscita dalla galera, quasi 30 anni di carcere, lunghi periodi di semi-libertà, arresti domiciliari, perfino qualche anno di libertà vera. Coi soldi dello spaccio lei ha cresciuto i figli, ha 83 anni, non ha più il carattere di un boss, ora è in ospedale, ma il magistrato non le concede un'altra chance e così nonna galera, come viene definita, resta ancora chiusa in carcere. È la detenuta più anziana d'Italia, a 83 anni. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Scegli una realtà che vale. Messaggio pubblicitario. Alessandro Milan, la sciocchina dell'informazione. Che vischera tu sei, Alessandro. Lo sapevo che andava a finire così. Colpa di Veronica Gentili che mi chiama la sciocchina e poi dopo gli ascoltatori si fanno delle strane idee. Allora, cari ascoltatori, siamo qui. Comunque mandate la vostra sigla al 349-238-6666. Allora, dobbiamo parlare di quello che succede con la direzione del PD, dove ieri, per la verità, con 48 ore di ritardo, perché le parole che il ministro Mariana Boschi ha detto in questo comizio, dicendo chi vota no al referendum vota come Casa Pound, in realtà erano già ieri sui giornali. Ieri il Fatto Quotidiano le metteva in ampio risalto. Pensate che oggi Repubblica titola, in pratica con 24 ore di ritardo, Boschi, chi vota no fa come Casa Pound. Ma appunto l'aveva detto venerdì o forse sabato. Comunque, questo ha animato un po' lo scontro tra la Boschi stessa e Cuperlo all'interno della direzione del Partito Democratico. Renzi al PD ha chiesto in pratica 5 mesi di mobilitazione continua, 5 mesi perché ci sono ora le amministrative, poi c'è il referendum di ottobre, e poi, finiti questi 5 mesi, il congresso per eleggere il nuovo segretario del partito. In direzione però, come raccontano tutti i giornali, lo scontro Boschi-Cuperlo. Cuperlo ha detto: ma che senso ha dire Casa Pound, chi vota noi come Casa Pound? E la Boschi dice: non ho mai preso la parola in direzione, ma ecco che la prende ieri per la prima volta. Ho solo detto che chi vota no vota come Casa Pound. È una constatazione, un dato di fatto banale. Sinceramente Gianni, potevi farmi una telefonata. Segue lo sfogo che è questo. Mi spiace davvero, ma ci sarà da qui al 2018 una direzione in cui la minoranza non attacchi la segreteria? La nostra gente è stanca di discussioni che nascono dal nulla. Questo ha risposto il ministro Boschi. Però i titoli oggi ci sono tutti. Per la Boschi, metà sinistra ha la camicia nera. Questo è il titolo di Libero. E vabbè, anche Repubblica, la lite Boschi-Cuperlo, il no sta con Casa Pound, ma anche con i partigiani, la replica di Cuperlo. E insomma, diciamo che per 24 ore il dibattito all'interno del Partito Democratico è garantito. Intanto il Fatto Quotidiano fa notare a pagina 4 che c'è un volume che sta facendo discutere, un volume, proprio un compendio per la scuola, un libro per la scuola. Segnalazione urgente, racconta Virginia Della Sala, pagina 4. La casa editrice Simone, nella linea Simone per la scuola, ha pubblicato un compendio che spiega ai ragazzi come sarà la Costituzione riformata, quella post-referendum. Così, come se la cosa fosse già fatta, senza tener conto del referendum di ottobre, di quale sarà il suo esito. L'allarme sui social network è circolato rapidamente. Si parlava di una diffusione gratuita, di una distribuzione propagandistica per il sì, di una lettura forzata negli istituti. Esagerazioni, certo, nelle scuole ancora non c'è traccia di questo volume, dal titolo La nuova Costituzione spiegata ai ragazzi, e nessuno sta costringendo nessuno a comprarlo. Però sul web è in vendita. Ed è già nelle mani dei rappresentanti di libri che in questi giorni vanno di scuola in scuola per convincere i docenti ad adottare per il prossimo anno scolastico i libri che promuovono. Volume di 162 pagine, susseguirsi di analisi e commenti degli articoli della Costituzione. Fino all'anno scorso il titolo era La Costituzione spiegata ai ragazzi. Prima ancora La Costituzione esplicata. Quest'anno è stata aggiunta la parola nuova, perché la seconda parte della carta viene commentata alla luce della riforma costituzionale. Insomma, il Fatto Quotidiano dice: ma come? Non c'è ancora un referendum, non è stata approvata, ma c'è già il libro pronto per le scuole. Staremo a vedere. Oh, intanto, a furia di evocare Casa Pound, Casa Pound, Casa Pound, Casa Pound, sta di fatto che, come raccontano tutti i giornali, a Bolzano, dove si è già votato, Casa Pound ha fatto un exploit, è il partito che ha fatto l'exploit migliore dal punto di vista elettorale. E allora Paolo Berizzi racconta, pagina 4 di Repubblica, un ultra dell'hockey trascina Casa Pound, il triplo di voti a Bolzano con l'alta agli stranieri. Si chiama Andrea Bonazza, coordinatore di Casa Pound in Trentino, leader degli ultra dell'hockey, con il candidato sindaco Maurizio Puglisi Ghizzi, che correva per la carica di sindaco a Bolzano sotto il simbolo di Casa Pound, e insomma questo 6,7%, una sorta di turbo messo, non se l'aspettavano neanche loro, quasi il triplo dei voti rispetto all'anno scorso quando erano fermi al 2,4%, e c'è un'analisi su Repubblica di questo voto a Casa Pound. Oh, c'è un'analisi anche interessante, sempre sul Fatto Quotidiano, di quello che succede a Livorno, dove il sindaco Nogarin è indagato, lui stesso lo ha confermato per bancarotta fraudolenta, ma bisogna leggere Giorgio Meletti a pagina 7 per raccontare sotto il titolo Nogarin, il casino puttano per il reato che ancora non c'è. Un casino puttano è come Angelo Rosi, manager umbro, che nel 2012 fu chiamato al capezzale della municipalizzata livornese per la nettezza urbana, definì la situazione un casino puttano. Ebbene, chi ha letto il documento non nasconde la sorpresa per questo reato ipotizzato per Nogarin, perché, scrive il Fatto, la Procura della Repubblica di Livorno ha informato che l'ufficio sta procedendo a indagini in ordine ai seguenti reati: articolo 110, cioè reato in concorso, verosimilmente con l'assessore già indagato, e poi articolo 216, cioè bancarotta fraudolenta. Poi la specificazione strana è questa: in Livorno, cioè accaduta in Livorno, alla data di omologazione del concordato preventivo, ovvero del fallimento dell'AMPS S.P.A. Cioè si indica il reato e come prassi la data in cui è stato commesso. Ma la data è una data futura. Cioè il concordato preventivo chiesto dall'AMPS non è stato ancora omologato. Non c'è stata una dichiarazione di fallimento. E quindi si tratta, in maniera strana, scrive il Fatto, di un reato per cui è indagato Nogarin, che potrebbe diventare tale in futuro, ma potrebbe anche non verificarsi mai, cioè quindi non essere mai avvenuto. Insomma, le persone normali faticano a capire tutto questo, ma è per fronteggiare queste vette del pensiero che sono stati inventati gli avvocati, scrive Giorgio Meletti. Insomma, il Fatto dice è stato contestato un reato futuro che forse ci sarà e forse si concretizzerà, ma forse no. Boh, nuove creatività giudiziare, si vedrà. La polemica intanto è servita anche per quel che riguarda Livorno. Intanto, per non andare subito dal nostro Mauro Meazza, cito, beh, però anche questa effettivamente, l'accusa di tutti i giornali c'è, trovata la circolare della direzione generale in Banca Etruria, in cui, secondo la procura, si diceva vendete questi bond a tutti i clienti, anche quelli, i clienti istituzionali, dunque quelli che non avevano un profilo finanziario adeguato. Insomma, tutti i giornali titolano che c'era il rischio. No, sorrido perché, caro Mauro, guarda, ho fatto di tutto per mettere una notizia tra te e un indagato, ma la notizia è questa. Alla fine, buongiorno, alla fine buongiorno. Però ci sei riuscito comunque. Questa notizia ovviamente è anche sul Sole 24 Ore di oggi, la trovi nelle pagine di Finanza che tu devi leggere come sempre avidamente. E compulsivamente anche. No, può bastare anche avidamente, comunque riferiamo anche di questa circolare. Speriamo bene, perché nelle prime pagine, come hai segnalato in apertura, c'è questa indicazione della Consob per dei prospetti trasparenti. Ti ricordi il manifesto del Sole? Perché non facciamo un foglietto dove le cose si capiscono? Ecco, sembra che ci sia questa determinazione. Quindi il nostro consiglio è stato accolto, la cosa naturalmente ci fa molto piacere. Adesso speriamo venga rapidamente tradotto in pratica. Tu stai leggendo sulla carta perché sei ancora un po' affezionato alla carta, ma sappi che, come riferiamo oggi, andiamo bene anche nelle letture da tablet, nelle letture da digitale, nella versione digitale Sole 24 Ore. Però trovi solo sulla carta, oggi è martedì, i tuoi soldi, cioè non i tuoi due eurini di carta, no. Il corso di educazione finanziaria Sole 24 Ore, oggi essendo martedì, in vendita con il Sole 24 Ore, dedicato a oro e investimenti impreziosi. Quindi leggi, non chiedermelo al bar, certo, ecco, certo. Come fai sempre, che ogni 5 minuti vai al bar, mi sembra di capire anche tu. Sì. Ma in ogni caso ti voglio segnalare rapidamente qualche altra cosa. Sappi che domani con il Sole 24 Ore ci saranno 16 pagine dedicate al modello unico per le persone fisiche. Quindi oggi i tuoi soldi, domani il modello unico, così da una parte li prendi, dall'altra poi ti prepari a... Vabbè, insomma, lasciamo stare. Ti voglio segnalare che, essendo martedì, ci sarà, come sempre nelle pagine di norme e tributi, la pagina dedicata al... Dillo tu, se ti sei distratto. Condominio. Sì, condominio, al certo. Condominio. È martedì, sì, perché pensavo fosse già giovedì, fosse giovedì. Giovedì, venerdì, qua, va bene. Sì, hai ragione, scusa. Il martedì il condominio, tra l'altro, si sta studiando un sistema per rendere efficace quella misura che consentirebbe anche ai condomini incapienti, come si dice, di poter cedere alle aziende il loro credito per le ristrutturazioni in casa. Va bene, ma c'è tutto il particolare sulla pagina. Sappi che due cose soltanto da norme e tributi. L'una, in Lombardia, scrive Gianni Trovati, per fare il revisore, mettiamo, di una società partecipata, giustamente devi avere un'esperienza, un'esperienza nel merito. Ci però spero. Potresti anche aver fatto il politico e va bene uguale. Ah. Leggi la storiella di Gianni Trovati oggi nelle pagine di norme e tributi, non è da mani sul volante, però te la segnalo, ormai il premio l'hai già assegnato. E poi è inutile che soffi poco nell'etilometro quando ti fermano, perché se... Comunque la Cassazione ha spiegato che se ci sono delle tracce di alcol, ebbene, allora la guida in stato di ebbrezza non te la toglie nessuno. E te lo dico adesso perché arriva il mio saluto. Traffico! Alessandro Milan, la sveglia dell'informazione. Ecco, appunto. Mi sembrava infatti una sveglia un po' a rilento. Allora... C'è questo articolo su Libero, è l'apertura. Il Jobs Act ha creato 100.000 posti fasulli. Il titolo è molto, molto drammatico, diciamo, messo così. C'è l'editoriale di Maurizio Belpietro che prende spunto da questo dato dell'INPS. L'anno scorso l'Istituto di Previdenza ha registrato 500 false aziende e 20.000 falsi lavoratori, con un danno per lo Stato di circa 160 milioni. Il dubbio dell'INPS è che questi falsi lavoratori e queste false aziende abbiano così usufruito indebitamente, ovviamente, degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato. In pratica c'è un dipendente falso ogni 15. E Maurizio Belpietro dice: ma come? Ho atteso tutta la giornata almeno un tweet di commento di Matteo Renzi, ma niente. E insomma, da qui il titolo: il Jobs Act ha creato 100.000 posti fasulli. Mentre c'è un giallo che riguarda le elezioni amministrative, il fatto che Fassina, Stefano Fassina, sia stato escluso perché ha presentato le liste con degli errori formali, un errore stupido grossolano, come dice lui, cioè l'errore di presentare liste senza una data in grado di certificare che erano state raccolte nei 180 giorni antecedenti. In realtà, racconta il Corriere della Sera, soprattutto con Fabrizio Roncone, che dietro a tutto questo c'è l'ombra di un trappolone a Fassina. E infatti Roncone dice: nessuno gliel'ha chiesto in maniera ruvida, ma a un certo punto mi avvicino, scrive Fabrizio Roncone, a Nicola Fratoianni. Pisano belloccio, furbo, veloce, capisce la politica perché c'è cresciuto dentro. Una quindicina d'anni fa voleva fare la rivoluzione, ora invece fa il duro e puro tra i parlamentari di sinistra italiana. Però Fratoianni sa benissimo qual è la voce che gira in città, e cioè l'errore nelle liste non è stato casuale. Perché, guarda me, dice Fratoianni, perché voi di SEL, fino all'ultimo, pur di non candidare Fassina sindaco a Roma, vi immaginavate altre soluzioni, quella di Massimo Brai, quella di Ignazio Marino. Insomma, Nicola Fratoianni abbozza, replica, ma c'è l'accusa addirittura che qualcuno abbia potuto sabotare Fassina. Non tanto che sia stato un errore grossolano e stupido, come dice lui. Comunque, al di là di questi gialli, Fassina dice: faremo ricorso al TAR e vedrete che verremo riammessi. Vi segnalo un'intervista al ministro dell'Interno Alfano su Avvenire, giornale che da sempre è in prima linea per la lotta al gioco d'azzardo legalizzato, il ministro dell'Interno parla, dopo che c'è stata tutta la mobilitazione di sabato scorso in 61 piazze del movimento Slot Mob, cioè un movimento contro il gioco d'azzardo legalizzato, intervistato da Antonio Maria Mira, un'intera pagina, pagina 5, e Alfano di fatto dice sì, saremo intransigenti contro mafia e il gioco d'azzardo legalizzato. Eppure dice bene la mobilitazione, risponde alla domanda, senta, ma lo Stato incassa non poco dalle tasse sull'azzardo, ma la spesa che poi sostiene tra cura della dipendenza, contrasto all'illegalità, è addirittura molto più alta, 7 volte di più, è d'accordo? Sono d'accordo. Questa è la risposta lapidaria di Alfano, si verrebbe da dire. Quindi, cioè perché lo Stato ci guadagna dei soldi. Insomma, comunque in tutta un'intervista di una pagina dice Alfano occorre disarmare i clan che sfruttano senza scrupolo la dipendenza creata dalle macchinette. Però, ripeto, lo Stato ci guadagna, ci guadagna. Vi segnalo che in Francia il vicepresidente della Camera si chiama Baupin, è accusato da colleghi di partito. Una ha detto mi ha spinto al muro, mi ha toccato il seno. Un'altra dice faceva molestie continue. E per giorni e giorni e anni queste colleghe hanno detto non abbiamo detto nulla per non ferire la moglie. La moglie del vicepresidente è il ministro. È il ministro. Ministro a che? Non lo so, alla casa, credo. Sta di fatto che a un certo punto però, dopo aver visto partecipare questo vicepresidente della Camera alla giornata di mobilitazione contro la violenza sulle donne, queste donne non ci hanno visto più, mi dice, ma come? Proprio lui, che da tempo fa molestie nei nostri confronti. Molestie alla Camera, bufera in Francia, le accuse di alcune deputate contro il vicepresidente della Camera dei Deputati, Denis Baupin, fa molestie continue. Boh. Vedremo come va a finire. Mentre in diretta anche sulla mia pagina pubblica di Facebook, venite se volete a cliccare mi piace, non nella pagina profilo privato, tutte le volte ve lo devo dire, ma nella pagina pubblica, siamo in diretta anche adesso video, per raccontare che la carta costa è dedicata a questo articolo, a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Mezza pagina dedicata a che cosa? Come porta i capelli il giovane premier? Come il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha cambiato l'acconciatura da dilato a sbarazzina, dal gel a forse una tintura? Ma chi se ne frega!